Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Marco Roncalli, Giovanni Paolo I, Albino Luciani, edizioni San Paolo, 736 pagine, 34 euro. Tra il 7 e il 18 febbraio del 1945 a Porzus, nel Friuli, 17 partigiani della Brigata Osoppo, di area cattolica e laica socialista, vennero massacrati da altri partigiani, legati ai gruppi armati partigiani del Partito Comunista. Responsabile della strage, il comandante partigiano Mario Toffanin. Condannato all'ergastolo, Toffanin riuscì a fuggire in Jugoslavia e Cecoslovacchia e alla fine fu graziato da Sandro Pertini e ricevette anche una pensione. Nel capitolo scritto da Elena Aga Rossi, la docente di storia contemporanea cerca di fare ulteriore chiarezza sulle vere ragioni che hanno portato al massacro di Porzus. L'eccidio di Porzus non rappresenta solo uno dei più gravi e sanguinosi scontri all'interno del movimento partigiano, ma è anche uno degli episodi più controversi della storia della Resistenza italiana. Ancora oggi si continua a discutere sui mandanti e sulle motivazioni di questa esecuzione. A chi andava attribuita la responsabilità dell'eccidio? Le interpretazioni si sono intrecciate tra loro con versioni che sono cambiate nel corso degli anni. Inizialmente l'eccidio è stato giudicato come un gesto isolato dei gappisti e in particolare di Mario Toffanin, detto Giacca, descritto come un esaltato. Una seconda interpretazione ha attribuito l'eccidio all'iniziativa degli sloveni. Una terza versione ha parzialmente ammesso una responsabilità diretta della Federazione Comunista di Udine, ma ha attribuito la responsabilità vera del fatto agli stessi osovani, cioè al loro acceso anticomunismo che avrebbe alimentato le tensioni con i garibaldini. Su questo rovesciamento delle responsabilità e sull'accusa agli osovani di collusioni con i fascisti avrebbe insistito il PC negli anni seguenti, riuscendo a creare una cortina fumogena su un crimine accertato e sul clima di sopraffazione e violenza imposto dai garibaldini e dagli sloveni in tutta quella zona. In realtà l'eccidio era la conclusione preannunciata dell'occupazione delle valli del Natisone da parte dei partigiani jugoslavi, che volevano così creare una situazione di fatto per l'annessione dell'area. Per raggiungere tale obiettivo, i comandi jugoslavi poterono contare sulla connivenza del PC nella Venezia Giulia e nel Friuli orientale, compresa la Federazione di Udine, e sulla quiescenza della direzione. Obiettivo dei comandi jugoslavi era non solo la penetrazione delle forze slovene all'interno del territorio italiano e il controllo delle formazioni esistenti nell'area, ma anche l'eliminazione di tutti quegli elementi che potevano in qualche modo opporsi ai loro disegni annessionistici nei confronti di Trieste e dell'Istria. Il 17 ottobre del 1944 vi fu un incontro a Roma tra il leader comunista sloveno Edvard Kardeli e altri dirigenti comunisti jugoslavi e Togliatti, la cui posizione fu così riassunta in una minuta dello stesso Kardeli. Egli non mette in discussione che Trieste spetti alla Jugoslavia, tuttavia ci raccomanda di applicare una politica nazionale atta a soddisfare gli italiani. Non abbiamo la versione di questi colloqui di Togliatti, che però due giorni dopo inviava a Vincenzo Bianco la nota missiva con la quale gli dava la direttiva di favorire in tutti i modi l'occupazione della regione giuliana da parte delle truppe del maresciallo Tito. Ci possono essere poche incertezze sul significato di una lettera con la quale di fatto Togliatti cedeva completamente alle pretese jugoslave, sconfessando nella maniera più clamorosa la pretesa del suo partito di rappresentare gli interessi del paese. Le conseguenze di questa presa di posizione non si fecero attendere. Nonostante diversi partigiani italiani della Garibaldi fossero contrari, nel novembre le formazioni comuniste in zona passarono alle dipendenze degli sloveni, che le spostarono in una zona di operazione dove non potevano in nessun modo ostacolare i loro piani. A difendere l'italianità del Friuli rimasero così solo le formazioni Osoppo, che costituivano ormai un cuneo ingombrante in un territorio dominato dalle formazioni slovene. I fatti di Porzus non furono quindi altro che la conseguenza di una strategia volta a ottenere con ogni mezzo il controllo dell'area, anche quando era necessario ricorrere all'eliminazione degli avversari. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal saggio di Elena Aga Rossi, L'eccidio di Porzus e la sua memoria, dal libro Porzus, violenza e resistenza sul confine orientale, a cura di Tommaso Piffer. Il Mulino, 166 pagine, 15 euro.